Suppongo che a questo punto dovrò dirle cosa ho imparato. La conclusione, giusto? Beh, la mia conclusione è che l'odio è una palla al piede. La vita è troppo breve per passarla sempre arrabbiati. Non ne vale la pena. Sono alla ricerca continua di me stesso, di me stesso, il progresso di ogni mio successo, di tutto ciò che ho perso, di quello che ho passato e di illusioni che come carta sono finite dentro un cesso. E vivo tutto in maniera intensa, è questo che mi fotte, ma non mi interessa. Sono passati anni da quando si sognava che il futuro era lontano, ma ora dove siamo scrivo per necessità. La felicità chi la fuma, chi la inventa, perché non la trovi qua. Zero serenità, invece mi sono ritrovato, odiato, bocciato, incazzato. Mi sono anche fermato, nessun treno è passato. No, aspetto alla stazione di un binario abbandonato e non voglio essere aiutato. Sento un rumore, cos'è stato? Troppi fantasmi in questi anni e io non sono più lo stesso. Sbagliare non mi è più concesso e ad essere onesto a parlare faccio presto. Questo è quello che sono davvero, un tono a ciel sereno, eppure è tutto vero. Quando non capisci qual è il tuo sentiero, un tono a ciel sereno, eppure è tutto vero. Quando tutto ciò che fai ti sembra zero, un tono a ciel sereno, eppure è tutto vero, eppure è tutto vero. Eppure è tutto vero. Times, e questo è l'intro. Leggimi dentro.